chiuso il mondo fuori. Lascio entrare solo te, anche se so già che sei il carnefice. Magari inconsapevole, ogni tuo sguardo logora la mia tremenda maschera. Cosa importa ormai? Basta avere noi. Io coltivo fiori immaginari, darti prima o poi. Sempre fuori, adesso è lui che ha chiuso me, anche se potrai sempre entrare, ti basterà bussare. Se sei Madonna in lacrime, mi lascio crocifiggere. Cosa importa ormai? Basta avere noi. Io coltivo fiori immaginari da darti prima o poi. Cosa importa ormai? Basta avere.